Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Questa sera non mi trovo come al solito nello studio di Radio 24, ma mi trovo a Brindisi, per la precisione alla centrale a carbone Enel Federico II, una centrale da più di 2 gigawatt, quindi una centrale molto grossa, 4 turbine da 600 e passa megawatt, dove oggi pomeriggio, poche ore fa, alla presenza delle autorità è stato inaugurato il primo impianto italiano, uno dei primi al mondo, di cattura e sequestro dell'anidride carbonica. Qui a Mr. Kilowatt ne abbiamo parlato altre volte, ricordiamo che si tratta di una tecnologia il cui scopo fondamentalmente è intrappolare in maniera definitiva, quindi stabile, l'anidride carbonica, che è il principale gas serra, nel sottosuolo a grandi profondità. E l'ovvio risultato, se questa tecnologia dovesse diffondersi, è che ci sarebbe la possibilità di continuare a utilizzare combustibili fossili senza effetti climalteranti. Di questo primo progetto italiano, in realtà si tratta di un impianto pilota, parliamo con Livio Vido, che è direttore della divisione ingegneria e innovazione di Enel. Buonasera Vido. Buonasera, siamo molto contenti di aver inaugurato oggi questo impianto. Per noi è il risultato di, direi, più di 5 anni di lavoro intenso su questo filone, dove siamo partiti su piccolissima scala con dei piccoli laboratori di prova per preparare questo processo di separazione e di cattura, e adesso siamo arrivati ad una scala già significativa, perché questo è un impianto da 10.000 normal metri cubi ora, quindi messo in tonnellate parliamo di 8.000 tonnellate l'anno. 2,5 tonnellate l'ora, che comunque è poco per una grande centrale come questa. Ecco, rispetto alle emissioni di anidride carbonica di questa centrale, voi sequestrerete una parte minima. Sì. Ma direi è già una quantità significativa, perché ci consente di provare, ormai noi lo riteniamo su piena scala, quello che è il comportamento di diversi sistemi di cattura della CO2. Intanto qua avviene la cattura, il sequestro, cioè questo pompaggio sottoterra, avviene in realtà vicino a Piacenza. Intanto perché 800 km di distanza tra il punto in cui prelevate la CO2 e quella in cui la pompate sottoterra? Ma guardi, l'impianto qui è costituito di 4 pezzi. Quello che abbiamo visto inaugurato oggi è l'impianto vero e proprio, dove noi separiamo la CO2 dal resto dei fumi. Dopo spieghiamo un attimo come. Ma oltre a questo ci sarà una pipeline pilota di un paio di chilometri che gira dentro la nostra centrale, che non è ancora fatta perché non abbiamo i permessi, ma che sarà proprio un prototipo del sistema di trasporto della CO2 liquefatta, un sistema di liquefazione della CO2, quindi la facciamo diventare liquida, e poi un sistema per caricare questa CO2 su delle autobotti che partono da qui e vanno a Corte Maggiore. Ma questo solo perché è un impianto pilota, vero? Certo, perché sennò ci potreste portare tutti in manicomio, perché la CO2 non si trasporta mediante autobotti. Soprattutto bruciando benzina, no. Sarebbe poco. È perché abbiamo avuto un'opportunità che è unica, lavorando con l'Eni, di avere a disposizione un loro giacimento esausto a Corte Maggiore, dove un po' di questa CO2, non tanto grandi quantità, verrà portata, iniettata e verificato bene come si comporta. Tra l'altro il sequestro, cioè il fatto di pompare dell'anidride carbonica nel sottosuolo, non è affatto una novità. Si usa per esempio nel campo petrolifero per estrarre meglio petrolio e gas dal sottosuolo. Quindi diciamo che la parte veramente tecnologica è la cattura, cioè la separazione della CO2 dagli altri gas insieme ai quali si trova mischiata, che fuoriescono dalla centrale. Esatto, il problema è la cattura, cioè la separazione della CO2 dal flusso dei gas, e la separazione è un processo che deve essere molto efficiente dal punto di vista energetico, e questo è il problema, perché la separazione vuol dire lavaggio, vuol dire inglobare la CO2 in soluzioni di varia tipologia, qui ne proveremo varie tipologie. Queste sostanze in pratica assorbono, il termine tecnico, questa CO2, e poi la rilasciano in una fase di rigenerazione, è un processo diciamo ripetitivo. A ciclo chiuso, questo solvente si continua a riciclare. Sì signore, stiamo cercando sistemi con separazioni meccanici, con setacci molecolari o con delle membrane o con dei assorbenti solidi e non più liquidi. parlando. Quanto incide in questo momento dal punto di vista economico sul costo di produzione dell'energia questa cattura della CO2? Ma guardi, partiamo dall'efficienza delle centrali. Le centrali a carbone, il parco medio di generazione europeo delle centrali a carbone oggi ha un'efficienza intorno al 30-35-36%. Insieme a questo discorso della separazione della CO2, noi stiamo ancora cercando di incrementare l'efficienza delle centrali a carbone e abbiamo un obiettivo che è il 50%. La cattura della CO2 penalizza questi rendimenti perché ci vuole dell'energia per catturare la CO2. Quanto sono i fattori di penalizzazione oggi riscontrabili? Oggi siamo al 10-12%, quindi se in una centrale da 35% di efficienza lei gli porta via il 10-12% per catturare la CO2, è chiaro che la centrale la sta ammazzando. Il nostro obiettivo vero è di portare quel 10-12% lì a 3-4%, incremento di efficienza e riduzione di penalizzazione portano il potenziale del carbone ai massimi livelli con la cattura della CO2 probabilmente intorno al 45%. Il miglior nucleare oggi è sul 36-37%. Una domanda velocissima di chiusura, questo è un impianto pilota ma a Porto Tolle, quindi in Veneto, dovreste realizzare qualcosa di un pochettino più grosso, me lo dica in 15 secondi. 250 megawatt è l'equivalente di potenza, quindi stiamo parlando praticamente di metà di una unità grossa da 660. Da 8.000 tonnellate l'anno a 1.000.000 di tonnellate l'anno, sì, è questo l'obiettivo. Sì. E poi stoccaggio per 10 anni del separato sotto il mare. Grazie Livio Vido. Prego.